9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end, I'll never look into your eyes again. Buongiorno cari ascoltatori, buon 21 di giugno, inizio ufficiale dell'estate. Non si può dire in effetti che non sia rovente l'atmosfera, ma non quella della che molti di voi, pensando alle vacanze, non so bene come facciate a pensare alle vacanze, immaginano, cioè quella, la temperatura atmosferica, se andare al mare o continuare a studiare. No, qui l'atmosfera che continua a essere rovente è quella in realtà dei mercati, delle attese, delle decisioni che l'Europa deve prendere, dei passi falsi, se purtroppo si può dire senza troppa soddisfazione, che il governo italiano in questi giorni purtroppo ha inanellato esattamente sulla scena europea. Diciamo che non era il caso, forse. Intanto un saluto a chi si chiama Luigi, perché oggi sono Luigi Gonzaga. Poi, prima di inoltrarci una trasmissione, perché noi abbiamo due ospiti oggi che sono due paradossi viventi di questo paese capovolto che è l'Italia, e ve li proponiamo perché invece la loro determinazione è un po' il segno di come si possono cambiare le cose dal basso, certo mettendosi ad assumere scelte che sono forse molto controcorrente rispetto a quello che vi dicono essere dei migliori, ma sapete com'è, io ho la testa dura, penso che si debba cambiare dal basso attraverso il coraggio anche di assumere posizioni che si discutono, ma che vanno controcorrente. Allora, in questa serie di consigli controcorrente, ricordo a tutti, potete comprare in formato ebook come le librerie Libro Sudditi, per imparare a non farvi trattare come oggetti e schiavi dallo Stato, che va rimesso al suo posto. Potete comprarlo anche in formato, naturalmente, ebook su ebookizzati, ebooks republic, amazon.it, e nello stesso formato di ebook potete invece, per capire come la penso io che ho fatto la prefazione, noi del Bruno Leoni, noi instancabili minoritari mosche bianche liberiste, un secondo volume che si intitola Se va bene andrà peggio, che è un po' la nostra idea, scenari dell'eurocrisi, e lo trovate sulle stesse piattaforme. Perché dicevo prima di presentarvi il primo ospite, passi falsi del governo, è vero che anche Berlusconi sui giornali europei dà una bella mano con questa stupidaggine di uscire dall'euro, stupidaggine perché tutti i giornali europei la presentano poi come una uscita demagogica dal punto di vista elettorale, non si ricordano iniziative del governo guidato da Berlusconi in questa direzione, anzi Tremonti era uno dei più accesi seguaci della cooperazione franco-tedesca e semmai criticò le decisioni europee, quelle a Deauville, di esporre i privati e le banche che compravano i titoli del debito pubblico a una compartecipazione nei fallimenti, sostenendo anche a questi microfoni, ricordate, che c'era troppo poca Europa a difesa dell'euro, non il contrario. Ma anche Mario Monti, a fianco della uscita di Berlusconi, che viene commentata su diversi giornali europei, anche Mario Monti, con la sua richiesta che fosse l'ESM a comprare i titoli del debito pubblico dei paesi più virtuosi, per così dire, tra cui l'Italia, si becca non solo la bastonata sul Sole 24 Ore di Luigi Zingales, vi invito a leggerla, molto giusta, condivido in pieno l'idea che è un po' strano, dall'austero europeista di sempre, ex commissario europeo Mario Monti, leggere improvvisamente che vuole la monetizzazione del debito pubblico italiano, che oltretutto non diminuisce l'esposizione nostra, ma è un favore fatto a chi detiene i titoli. Leggete per esteso la critica di Luigi Zingales che trovate in prima pagina sul Sole, ma a dirvi la verità anche il Financial Times oggi, nel riportare questo passo falso del governo che viene escluso dai tedeschi, inizia a dire che il governo Monti potrebbe essere addirittura a rischio se al Consiglio europeo del 24 non continuassero ad arrivare dall'Italia proposte più arrischiate di quanto non sia diventata invece molto più morbida la stessa linea francese sugli Eurobond. E quando vi dico che è diventata più morbida, basta pensare all'intervista che trovate su Desight di Marc Ayrault, francese, per conto del governo francese, in cui ieri Parigi, per accontentare i tedeschi, ha detto che occorreranno anni per gli Eurobond. Quindi evidentemente si sta sfrangiando il fronte dei paesi eurodeboli che chiedono un cambio di marcia ad Angela Merkel. E comunque un ulteriore no alla proposta di Mario Monti la trovate sulla Frankfurter Allgemeine, anche qui con dichiarazioni ufficiali. C'è il vice portavoce del governo tedesco Georg Streiter che dice: non ci saranno affatto questi acquisti di cui parla il presidente del Consiglio, italiano. Ecco, quindi qualche passo falso di troppo, come del resto è implicito nell'ammissione ieri sera da parte di Palazzo Chigi che per gli esodati la riforma del lavoro, visto il giudizio negativo che continua a esserci sulla riforma anche di Confindustria, sarà lo stesso Monti a doversene occupare e non la ministra Fornero, di cui ieri si è dichiarato perdutamente innamorato Giuliano Ferrar. Allora, questo per concludere con un po' di rassegna europea, e andiamo invece a per così dire mister paradossi di oggi. Il primo lo abbiamo in studio, è un imprenditore in cui ci imbattemmo nel suo caso come in molte migliaia, moltissime migliaia di altri nella nostra campagna, con cui abbiamo aperto i microfoni, aperto soprattutto le nostre orecchie, i nostri cuori a migliaia e migliaia di piccoli imprenditori italiani che sono attentati nel loro stesso diritto alla permanenza in vita con le loro imprese dalla gravità di questa crisi, molto più grave di quella del 2008-2009 per chi lavora sul mercato domestico italiano. E questo imprenditore, attraverso una lettera e attraverso l'eco che noi gli abbiamo dato, ha iniziato poi, per così dire, un percorso, nel senso che dopo essere venuto da noi, diverse trasmissioni lo hanno contattato. Il suo nome è Andrea Zucchi, qui in studio con noi. Buongiorno Andrea. Buongiorno a voi. Ecco, tra l'altro andò anche ospite della trasmissione di Formigli, e la trasmissione di Formigli, girandogli abbastanza le scatole, io sono con lui, c'era un sottosegretario più mediatico del governo, sottosegretario Polillo, e accadde questa cosa. Sentiamo qualche secondo della trasmissione di Formigli in cui Andrea Zucchi era ospite. Queste sono le chiavi della mia attività. Io questa sera ho finito, perché abbia pazienza, ma domani i miei negozi li aprite voi, niente di personale. Vorrei una battuta da Polillo sulle chiavi. Magari l'azienda può ancora fruttare qualcosa, ci pensi? No, vedo, incidente di governo magari. Cose da SUV. Da... C'è no. SUV lei? No. Che cosa? Quella è l'allarme del negozio, perché ci abbiamo anche paura dei ladri. Era una battuta la mia. Siccome vedo un bel mazzo di chiavi, diverse vetrine... Insomma, sono imprenditori, hanno avuto anche... hanno avuto, vorrebbero vedere, però davvero ce ne sono talmente tanti fatto niente, che ci scrivono. Non abbiamo fatto niente. Noi abbiamo fatto una manovra che ha tutte le caratteristiche negative. Vabbè, adesso ci sono le giustificazioni di Polillo. Naturalmente la battuta iniziale a Polillo non sempre vengono bene quando ti consegna le chiavi alle tue imprese e tu inizi a fare la battuta ai SUV. E mi dispiace perché io sono anche amico di Polillo, la sovraesposizione mediatica talvolta rende la lingua più rapida del pensiero, è una cosa che devo ricordarmi sempre anch'io perché tendo a parlare troppo velocemente, però in questo caso le cose di cui parlava Andrea Zucchi non erano non posso più tenere il SUV, erano le cose insomma, un pochino più complicate, un pochino più radicate in questa enorme, difficile e purtroppo inascoltata, questo resta il giudizio alla fine della nostra campagna di disperati mai, inascoltata protesta degli imprenditori italiani. Perché lo dico con amarezza, non lo dico per criticare il governo italiano va sostenuto, non è questo, ma io vi chiedo, per voi che siete in ascolto, piccoli imprenditori, lavoratori dipendenti, disoccupati o giovani che faticherete a trovare spazio in questo paese, perché in questi mesi non abbiamo davvero assistito alla capacità di membri del governo, io avrei sperato il Presidente del Consiglio in prima persona, di una sola, una iniziativa in cui cuore in mano e capendo che bisogna cambiare tono rispetto a centinaia di migliaia di persone che vivono un dramma e lo vivono nel cuore profondo di ciò che consente all'Italia di avere ancora quello straccio di onore e considerazione che ha sui mercati mondiali, ed è la piccola impresa italiana a fare questo. Com'è che non l'abbiamo visto in questo mese? Niente di tutto questo. È incapacità antropologica, umana? Non lo so. A me addolora però, perché è la stessa cosa che ho provato di fronte al terremoto, capite, a Modena, a Ferrara, di uno Stato che non è capace di distinguere quando gli arriva per la prima volta un sismo in un'area ad alta vocazione industriale, che lì non ci si può comportare con gli stessi tempi e le procedure di quando un sisma avviene in aree in cui non c'è quella densità di impresa, perché c'è bisogno di discontinuità, perché le procedure devono adeguarsi alla realtà e non è la realtà che deve piegarsi alle procedure. Allora, Andrea Zucchi è andato avanti in questo percorso e ci spiega adesso un'iniziativa che terranno sabato. Andrea, allora ricapitoliamo, cominciamo da sabato. Questa l'iniziativa che lanci e avete già lanciato per sabato si terrà dove e che scopo avrà? Si terrà in un paesino della bassa Piacentina, Carpaneto Piacentino, perché l'intenzione è che chi sarà presente sarà fortemente motivato a esserci. Arriveranno persone da Lettonia, dal Cile, dalla Sicilia, da Aosta. Saranno persone essenzialmente, in parte imprenditori, che mi hanno contattato perché dopo l'esposizione mediatica capitata grazie a lei, sono stato contattato da molte persone che mi dicevano che condividevano il mio stato d'animo, lo stato d'animo di chi è consapevole che sarà capro espiatorio di un paese quando succederà quel che deve succedere, e che, essendo singolarmente così fragili, abbiamo necessità di fare squadra per provare a vincere in squadra, se no saremo, come diceva Al Pacino, annientati individualmente. L'obiettivo quindi è pensare a una vita lontano dall'Italia. E infatti l'iniziativa si intitola, questa iniziativa che si tiene sabato 23 a Carpaneto Piacentino, nella sala bot del Palazzo Municipale. Beh, abbiamo persino le sale dei palazzi municipali intitolati ai titoli del debito pubblico, ma credo che non sia questo l'acronimo, però intanto così suona. La sala bot del Palazzo Municipale di sabato 23 giugno 2012, questa giornata di lavori ha un titolo che richiama esattamente quello che Andrea Zucchi ci diceva adesso, perché il titolo dell'iniziativa è Passaporto per la vita. Sì, un passaporto per andarcene, la direzione è andare a vivere. Qui per noi non c'è più vita. Il nome della sala è emblematica di come questo paese guardi sempre al futuro con gli specchietti retrovisori, perché BOT non è l'acronimo dei titoli di Stato, bensì è il nome di un orrendo, ignobile, schifoso artista del ventennio che dipingeva cose schifose, ma che, essendo soltanto vecchio, la nostra idea di conservazione del passato rende la sala sottoposta alla sovrintendenza delle belle arti, quindi non si può toccare niente. La sala ha un'acustica scadente, una qualità estetica orrenda, ma siccome è vecchia va tenuta così com'è. E vabbè, questo è il paese del massimo della conservazione, in cui non si può neanche cambiare un mattone, quindi figuriamoci. Allora, questo è quanto. Questo passaporto per ribadire il diritto alla vita dell'impresa e del lavoro rispetto alle tasse, allo Stato, a un'amministrazione così invasiva, così incapace di adeguarsi a ciò che invece dovrebbe assecondare. Per andare dove? Innanzitutto abbiamo bisogno di capire chi siamo e che potenzialità abbiamo, perché il dove lo sceglieremo in base alla qualità dei progetti, alle caratteristiche dei progetti e alle possibilità che avremo. Quindi questa prima giornata di lavori è per cominciare a darci un metodo. Fino adesso la vita è stata un passo avanti a noi nel generare questa situazione. Da sabato cominciamo a fare un po' il nostro mestiere, siamo imprenditori, quindi un po' di capacità di organizzazione e pianificazione ci deve essere congeniale. Di conseguenza avremo persone che hanno esperienza diretta, non sentito dire, di paesi in giro per il mondo, ci daranno quindi conto di cosa significa andare in Cile, cosa significa andare in Lettonia, cosa significa andare in Marocco, cosa significa andare in qualsiasi posto che non sia euro, ovviamente, Svizzera inclusa. E avremo persone invece che hanno già iniziato progetti operativi, idee di business, e li presenteranno. Cominceremo a cercare di fare quindi squadre operative per definire meglio queste cose. Il tutto con un mio auspicio di fondo, che è che, siccome la nostra forza è essere comunità, perché noi siamo individualmente molto fragili, siamo fragili in Italia, figuriamoci qualora ce ne andassimo via di qua, abbiamo bisogno di costruire una casa comune per noi imprenditori non può essere un'associazione per fare chiacchiere, per alzare bandiere, ma una casa comune è uno strumento che possa essere leva di consulenza per definire business plan efficaci, una leva finanziaria per gli start-up di questi business plan. Vede, dunque, io ci contavo che tra i primi messaggi di reazione partisse una specie di riflesso condizionato che nella pancia profonda di molti, anche nella testa, io non è che nel dire pancia vi manco di rispetto, immediatamente scatta quando si capisce che noi stiamo parlando, sì, ebbene sì, stiamo parlando del fatto che per difendere il diritto alla sopravvivenza d'impresa, se lo Stato ci tratta così, ce ne andiamo con i piedi dove ordinamenti più civili sono in condizione di non trattarci da sudditi, di non espropriarci reddito e patrimonio in cambio di servizi che sono migliori di questi e senza avere la pretesa di dire che è un'etica pubblica la loro, tassicodipendenti e ladri di Stato. Questo detto urlando, perché urlando lo dici quando sei molto arrabbiato, in realtà si traduce in una posizione che è quella che si vota con i piedi, oltre che con le mani, negli ordinamenti che sono in concorrenza rispetto a paesi più liberi, capaci di migliori servizi a più basso prezzo, capite? Funziona così il mondo. E invece io lo sapevo e apposta ho contato sul fatto di invitare qui Andrea Zucchi, che molti di voi, o meglio alcuni di voi, iniziano il messaggio a dire: vi paghiamo il biglietto noi, traditori dell'Italia, fuori di qua, delocalizzati, imbecilli che non siete altro. Vi hanno imbottito la testa con l'idea che qualunque sia il livello di tassazione dello Stato, qualunque sia il livello di schiavitù che l'ordinamento vi riserva, dicendo che non avete diritto neanche a un equo processo fiscale, lo Stato ha ragione e chi di fronte a questo è costretto ad andarsene per difendere comunque le ragioni di imprese che restano italiane se fatte da italiani, voi reagite in questo modo. Perfetto. E allora siete le vittime ideali per lo Stato italiano che vi spogli fino al vostro ultimo euro di patrimonio. Questo è il mio sogno. Tranne il fatto che di fronte alle condizioni di non potere fare un'impresa se non con tassazioni di decine e decine di punti aggiuntiva rispetto a concorrente di qualunque altro paese avanzato, uno inizia a vedere che cosa altro offre il mondo. E questa purtroppo è una ipotesi che non è dichiarata da Andrea Zucchi, chi lo seguirà in questa iniziativa, ripeto, sabato Carpaneto Piacentino, una giornata di lavori per riflettere se per difendere la propria libertà d'impresa non bisogna andarsene. È una cosa che viene già praticata da migliaia e migliaia di imprese solo in Carinzia, solo in Carinzia. Sono più di 500 dall'inizio di quest'anno le imprese italiane che se ne sono andate. Secondo voi perché se ne sono andate? Perché sono traditori? O perché a tradire l'onore dell'Italia è questo schifo di Stato che ci depreda? Questa è la mia, diciamo così, compassata osservazione. Forse qualcuno dovrebbe aprire gli occhi sul fatto che per difendere le ragioni della libertà di un'impresa efficiente bisogna organizzarsi. Io voglio ricordarvi la lettera da cui siamo partiti, la lettera che ci ha mandato qualche tempo fa Andrea, che è qui in studio. La lettera diceva così: mi spiace ma non mi ucciderò. Le tasse mi strangolano e lo fanno con consapevolezza criminale. Ho più crediti che debiti con lo Stato, ma non mi permette di compensarli. E mi diffida, e mi minaccia, e mi sequestra le cose. Chiudo allora un'aziendina, la mia, che per ora non perde soldi, ma li perderà così. E faccio purtroppo altri 4 disoccupati. Uno dei 4 sono io. Poi mi siedo sul divano e fisso nel vuoto finché non mi passa la voglia di bruciare questo paese. Finché mi passa la voglia, capite? Qui non c'è niente di illegalitario. Non c'è niente di illegalitario. Non mi ucciderò. E infatti per fortuna è qui con noi, Andrea. Me ne andrò con i miei bambini e osserverò da lontano questo paese bruciare nelle sue cazzate. Io sottoscrivo qualunque parola. Da quando è annunciato questa iniziativa, qual è stata l'eco che c'è stato? Cioè, prevalgono quelli che insultano o prevalgono quelli che dicono cioè, vediamo di trovarci e ragioniamo? Devo dire che una piccola frangia insulta e la posso capire, la lascio fare. Sono stato contattato da migliaia di persone che a vario titolo mi hanno testimoniato solidarietà in tanti modi. È interessante osservare un altro dettaglio. Noi siamo gli ultimi sprovveduti che pensano questo, perché la totalità dell'impresa che paga tasse vere se n'è già andata a questo paese. Esatto. Ha cominciato dallo statuto dei lavoratori, che ha fatto scappare la grande impresa, dopo è rimasta la piccola impresa, la quale adesso estende l'articolo 18 genialmente, e così ce ne andiamo tutti. Ma La cosa formidabile è che quando parla, ho parlato, mi sono trovato di fronte a queste persone che mi richiamavano all'amor patrio, erano tutte persone che hanno casa all'estero, soldi all'estero, figli all'estero e lavoro pronto all'estero e siedono quasi tutti in Parlamento. Di conseguenza la retorica del richiamo all'amor patrio per uno che ha portato una divisa e era pronto a dare la vita per questo paese, con me attacca poco. Sul perché ce ne andiamo, francamente sabato neanche ne parleremo più, abbiamo archiviato questa certo, cosa. È così, noi guardiamo sotto avanti. Gli occhi di tutti. Sì, è limpido, cioè è enorme ed è non è seria la situazione, cioè è grave ma non è seria, no? Parafrasando. Purtroppo. E quindi qui noi possiamo... Io l'unico motivo per il quale io posso rimanere in Italia è che non riuscirò ad andare via forse, perché io non ho la certezza di riuscirci, perché io sono fragile. Di conseguenza, se resterò qui, mi esporrò all'udibrio del fallimento, chiaramente. Più, sì, sì. Che una, d'altra parte io sono un commerciale, per cui la paura del fallimento è da gestire, è parte della mia professionalità. Fa parte intrinseca del ciò che uno fa. È il mio lavoro. Di conseguenza, questa cosa, ripeto, è nata in maniera un po' spontanea. Ho scoperto anche che l'Italia è un paese di santi, poeti, navigatori e consulenti, perché ogni 5 imprenditori ci sono 17 consulenti che ti devono spiegare che ore sono al suo orologio. Però anche questa fa parte del rendersi conto del perché le cose qua sono, credo, ormai ingestibili. Ergo, noi guardiamo avanti. Naturalmente qualcuno dice no, fermiamoci prima a considerare, cambiamo l'offerta politica, affermiamo queste ragioni, mettiamole al centro dell'agenda. Ragazzi, il piccolo problema è che però se un imprenditore si trova con la sua piccola impresa in cui ha investito un pezzo fondamentale della sua vita, ne ha fatto la fonte d'origine della conferma, usiamolo questo termine, anche del suo onore nell'organizzazione sociale, perché è così, questa è la scelta di fare la scommessa su se stessi, con i propri dipendenti, i propri collaboratori. Io capisco che dica sì, a cambiare l'offerta politica metteteci voi, perché io intanto c'ho una priorità che viene prima, perché io di tempo e cosa per fare quello non ce l'ho, però vedo che Andrea su questo no, non è solo questo, La considerazione è che la maggioranza in questo paese vuole che le cose stiano come sono, perché quando Passera mi dice che la crisi la sente solo 28 milioni di persone, è perché sono quelli che mantengono gli altri 32, i quali chiaramente quando votano dicono che va bene così. Si sveglieranno il mattino in cui non avranno il bonifico sul conto corrente, perché ma è un fatto matematico. Paese col 54% di spesa pubblica È evidente che questa situazione già sta costringendo tutte le famiglie quasi a intaccare il patrimonio per sostenere i redditi, ed che è un classico segnale di quando oramai c'è una caduta che inizia a essere, se non si cambiano radicalmente alcuni meccanismi di fondo, irreversibile. Cioè, un paese nel quale molti continuano a ritenere che lo Stato sia la risposta e non il problema, quando l'intermediazione pubblica, cioè la somma di tutto ciò che lo Stato spende e la somma di tutto ciò che lo Stato prende, è arrivata al 99% del PIL, cioè 10 punti più che la Germania, per essere chiari, gli Stati Uniti, che ovviamente a molti di voi non piacciono perché difendete il modello sociale europeo eccetera eccetera, negli Stati Uniti la somma della spesa e del totale delle entrate è al 76, noi siamo al 99%, capite che ci sono decine e decine di punti in più per avere questa situazione nella quale magari riusciamo a anche avere 110.000 dipendenti in meno in 12 anni pubblici, stretto senso, passiamo da 3.610.000 a 3.500.000, ma nel frattempo il costo sale di 40 miliardi, anzi di 40,8, passando da 133 a 174, voi capite che i paradossi italiani di fronte ai quali vi dicono che saremmo noi gli anomici, saremmo noi i violatori del patto sociale, noi che semplicemente diciamo che ci siamo rotti le scatole di sentirci dire che non c'è alternativa a questo. Ora andiamo in pubblicità e poi torniamo ancora con Andrea Zucchi e con un altro ospite, un sindaco di Villafranca, provincia di Verona, un sindaco anche lui controcorrente. Pensate, lui licenzia i dipendenti infedeli e riesce a farlo. Dice che non è vero quello che dicono tutti i suoi colleghi, che non si può fare in Italia, non solo perché l'ordinamento lo consente, questo l'abbiamo detto anche tante volte noi, ma perché lo si può fare senza che sindacati, tribunali, pugnative ti impediscano di farlo. Basta volerlo fare. Siamo con Andrea Zucchi, imprenditore, sabato stato animatore di un'iniziativa sabato 23 giugno a Carpaneto Piacentino, alla sala BOT del Palazzo Municipale, una giornata di lavori per tirare le somme, e l'iniziativa è Un passaporto per la vita, per così dire riflessioni collettivi di piccoli imprenditori che non riescono più in Italia a trovare le ragioni di permanenza in vita delle loro imprese e che vogliono continuare a dare lavoro, a fare impresa, e che esaminano liberamente quali sono le possibilità per chi ragiona così che altri ordinamenti meno ostili del nostro italiano offrono a chi ragiona così. Altro esempio, pensate ieri a David Cameron, il premier britannico, che ha fatto infuriare il presidente Hollande francese, perché ha rilasciato la dichiarazione dicendo: la Francia va a mettere l'aliquota del 75%, benissimo, stenderemo i tappeti rossi dall'altra parte della Manica. Il presidente Hollande ha detto: è una questione di buon gusto non rilasciare dichiarazioni di questo tipo. Cameron ha riso dicendo: fate come volete, noi comunque i tappeti rossi non dobbiamo neanche srotolarci, perché è già pieno di imprese francesi che sono venute qua. E la concorrenza tra ordinamenti liberi funziona così. Semmai il problema, e riprendo a rivolgermi ad Andrea Zucchi che è qui in studio, è quello di capire bene, rispetto alle proprie specializzazioni, ai propri residui asset patrimoniali, dove andare, e se si può farlo magari in una logica di filiere con qualcuno collegato, è vero o no? Assolutamente sì. Proprio la fragilità individuale per noi deve diventare una forza collettiva. L'idea è questa: innanzitutto costruiamo un database delle competenze. Io in questo momento ho ricevuto contatti da tutto il mondo, veramente, di italiani che se ne sono già andati e che fortunosamente hanno ho sentito la sua trasmissione, ho visto qualcosa di qualche mia uscita, e mi hanno contattato per A, testimoniarmi solidarietà, B, dirmi finalmente l'avete capito, C, dirmi allora io qui ho opportunità di lavoro, fammi sapere che cosa sanno fare i tuoi amici e qui cerchiamo soluzioni. Questo è un sistema. Il secondo sistema ovviamente è piccoli asset patrimoniali residui possono essere sommati per costruire una leva finanziaria. E qui qualche professionista ci darà una mano per fare le cose correttamente, con la migliore efficacia possibile. Il terzo aspetto è un'applicazione molto scientifica sulla costruzione dei business plan. Noi italiani sicuramente abbiamo idee. Uno dei difetti delle imprese italiane è essere prodotto centrica, cioè innamorarsi del prodotto, poi andarsi a chiedere se c'è un mercato. Esatto. È un problema di una vita per me che faccio il commerciale. Magari è l'occasione per cominciare a farla come si deve impresa. Quindi partiamo da analisi di mercato, e allora ecco che una somma degli asset ci può dare la possibilità di costruirci strumenti di analisi di mercato, e poi andremo a definire quali sono i prodotti e le strutture produttive, le iniziative commerciali, le attività che possiamo generare. A quel punto si capirà dove collocarle, perché non è la stessa cosa fare una pizzeria e fare un'azienda meccanica, e ci sono opportunità formidabili in giro per il mondo, ma soprattutto ci sono stati amici degli imprenditori, stati che dicono: se qualcuno viene qui e dà lavoro, io sono contento. Qui da noi siamo nemici del popolo. Esatto. E francamente ci sono stati che non fanno altro, guardate veramente il sistema per esempio della Croazia, della Slovenia, ma anche del Montenegro e della Serbia, Montenegro c'è stato un mucchio di imprese italiane esodate lì, perché ti risolvono tutti i problemi, ti offrono quello che in Italia non puoi fare con il fisco, una pianificazione fiscale pluriennale. Da noi non puoi fare la pianificazione fiscale perché sai quanto paghi di tasse solo l'anno dopo che hai sommato tutto quello che lo Stato ti ha chiesto e il tuo commercialista ha passato il tempo a interpretare le nuove circolari. La pianificazione fiscale da noi per una piccola impresa è impossibile, uno. La pianificazione amministrativa è impossibile, perché la mole di adempimenti che variano ti rendono impossibilitato a sapere prima quale sarà davvero l'onere delle tue esternalità negative per gli adempimenti amministrative, e si è reso impossibilitato anche alla pianificazione dei tuoi dipendenti da una certa soglia in poi, che adesso diventerà per tutti con questa riforma del lavoro. Queste tre elementari forme di pianificazione sono l'ABC che bisogna offrire a un'impresa, soprattutto quella piccola ovviamente, per ottimizzare al meglio il suo circolante, il suo patrimonio. Ma questo lo Stato non lo sa, perché cosa vuoi che sappia? Se ne fotte, pensa solo a come finanziare il suo debito, e per di più ci sta anche tentando di sottrarre la via dell'abbattimento patrimoniale con quote di patrimonio pubblico, perché la manovra del disegno di legge di venerdì è quello di levare dalla possibilità di soluzione questo tipo di ipotesi, dicendo ma abbiamo cominciato, cioè, hanno cominciato niente, perché quelle non sono dismissioni, quindi bisognerà ricominciare a rompere le scatole. Allora, a proposito di rompiscatole e di paradossi, oltre al caso di Andrea Zucchi qua, che è imprenditore studio, è collegato con noi il sindaco di Villafranca di Verona, Mario Faccioli, e io l'ho invitato perché ho visto sui giornali sue interviste in cui il sindaco di Villafranca, vi ricordate la pace di Villafranca, la guerra di indipendenza, Villafranca in provincia di Verona, nelle interviste il sindaco Mario spiegava: guardate, io quando becco dipendenti del comune infedeli, e sono molto tignoso, quindi controllo ogni pratica, ogni iter, incrocio le cose, quando non mi convincono li convoco, e se ci sono segni evidenti di loro inadempienze, io non solo penso che sia giusto licenziarli, no, io li licenzio, sono riuscito a farlo e si può fare. Allora, se si può fare, non è vero quello che dicono la maggior parte dei miei colleghi, che non si possa fare nel pubblico impiego, non solo perché l'ordinamento lo consente, questo l'abbiamo detto mille volte che l'ordinamento lo consente, ma perché si può fare portando a casa il risultato. E allora per questo lo abbiamo chiamato. Buongiorno e grazie al sindaco di Villafranca, Mario Faccioli. Allora, come funziona, sindaco, questa cosa? In cosa consiste il si può fare? Ma consiste innanzitutto che ci vuole comunque una classe dirigente all'interno delle strutture pubbliche che abbia il senso dello Stato, il senso dell'amministrazione pubblica, che rispetti le norme, perché un sindaco da solo può avere tutti i tanti buoni propositi, però da solo non lo può fare. E qui credo che quello che abbiamo fatto in questi anni, da quando sono sindaco del 2008, è quello di aver fatto capire ai nostri dipendenti pubblici il rispetto delle regole, di chi paga le tasse, e il ruolo importante del dipendente pubblico nell'erogare servizi ai nostri cittadini. Pertanto io credo che sia importante valorizzare chi all'interno delle amministrazioni pubbliche lavora bene, perché chi lavora bene deve essere giustamente premiato, chi lavora male viene richiamato, perché è previsto dal contratto collettivo nazionale del lavoro. Una volta che una pratica non è stata espletata nei modi, si è creato un disservizio nei confronti del cittadino, c'è la prima formula, che è quella del richiamo scritto. Dopo tot richiami, lo prevede il contratto collettivo, si può anche licenziare per motivazioni gravi a seguito di tutta una serie di valutazioni fatte nel tempo. Poi c'è chi ruba, come nel caso mio specifico degli ultimi 2-3 anni, ne ho beccati 3 che hanno non solo fatto un disservizio ma hanno anche rubato, e credo che questo è una pratica che non esiste solo, credo, nel comune di Villafranca, quindi non è che deve passare il principio del comune di Villafranca i dipendenti pubblici sono cattivi, anzi, ne ho tantissimi, il 99% sono bravi, e quindi ritengo che chi non è bravo debba pagare, e qui è una prassi, voglio dire, di applicazione, di presenza, di coordinamento con gli uffici, di valutazioni. È costanza, insomma, nel però sa, sui giornali l'altro ieri abbiamo letto di una sentenza di Cassazione che ha reintegrato un giovane carabiniere, non voglio paramare dei carabinieri, ma il caso giudiziario era questo, un giovane carabiniere che espulso dal corpo per aver compiuto un reato di furto, sia pur di lieve entità, però stiamo parlando di un carabiniere, ci picchia, espulso dal corpo, è stato reintegrato. Allora, non è che poi lei procede come l'ordinamento prevede e poi in realtà con le impugnative amministrative o di merito rientra tutto? Beh, io mi auguro, per quello che abbiamo fatto noi e per i casi che abbiamo avuto noi, sarebbe un'ingiustizia nell'ingiustizia se succedesse questo, perché gli elementi di valutazione su cui noi abbiamo agito in coordinamento con le forze dell'ordine, non, come si dice, non c'è tripa per gatti, per quanto mi riguarda, non credo che possa esistere un... Cioè lei dice che erano casi conclamati, il giudice vedrà dopo, ma insomma è sicuro del fatto suo. E poi comunque lei afferma il principio che come sindaco e capo dell'amministrazione lei deve procedere prima, non aspettare il giudice, no? È giusto, mi pare. Allora no, la procedura è abbastanza, poi è stata modificata. La procedura, qual è il problema? Il problema era che nel momento in cui si agisce per forma penale, nel senso che interviene un'autorità di giustizia, tipo i carabinieri, tipo la Guardia di Finanza o tipo la polizia, fa un intervento a seguito di segnalazioni su un dipendente pubblico, finché non si è arrivati al grado di giudizio che lo condanna, un'amministrazione pubblica non lo poteva licenziare. Quindi c'era il diritto, nel senso, finché non sono colpevole tu non mi licenzi. Nel momento in cui invece è stata modificata con la riforma Brunetta che un'amministrazione pubblica, indipendentemente dall'azione penale o amministrativa da parte di un organo superiore, l'amministrazione comunale, a seguito di evidenti e gravi motivazioni, può agire in anticipo rispetto alla sentenza di qualsiasi organo di giustizia, procedere all'allontanamento del dipendente tramite licenziamento. Ed è esattamente quello che ha fatto lei, poi naturalmente se il giudice reintegra. Poi siamo a gradi di giudizio, quindi il problema insomma è nella norma, cioè voglio dire ci sta. Senta, però... ma i sindacati come l'hanno preso? Come? I sindacati come l'hanno preso? Ma guardi, non lo so. Perfetto. Non lo so, anche perché io ho un contrasto forte con i sindacati, immagino, ma non perché ce l'ho immagino. Con i sindacati, no. Io parto da un presupposto, a parte essere sindaco sono un cittadino, a parte essere cittadino ho una famiglia, a parte avere una famiglia faccio parte di questo paese e ho molto rispetto di chi ci ha portato oggi a dovere questa libertà di poter esprimerci, certo. Di poter dire, di poter fare. Ci mancherebbe. E questo grande rispetto credo ognuno di noi lo deve applicare quotidianamente. E io dico sempre, anche ai sindacati, dateci una mano a noi amministratori, per chi ha voglia di fare, di poter essere premianti nei confronti di chi è bravo, perché pur essendo esatto. Nel pubblico o nel privato, io devo avere la possibilità, a seguito dei miei obiettivi, dei miei piani strategici, dei miei di tutta la mia programmazione che io devo fare, devo poter premiare. Però sa, bravo, quando no? In primis il ministro attuale Patroni Griffi a smontare la riforma del merito e a dire che non bisognerà fare più le valutazioni individuali come si tentò in vano di fare, restò una chiacchiera con Brunetta, ma che bisogna fare solo su scala organizzativa e collettiva e per business unit, è ovvio che il sindacato sa di poter contare su un burro molle, per così dire, cioè per cambiare, ispirandosi ai principi che lei dice, c'è bisogno di una iniziativa fortissimamente motivata. Il problema è che il sindaco Faccioli, anzi Bello, non il problema, ci segnala che si può fare. Io sono convinto che dal basso, come il cittadino che ha la sua famiglia, Mario Faccioli, lo fa da sindaco, questo è il modo in cui bisogna cambiare le cose dal basso, provandoci, mettendoci la faccia, perché sono abbastanza convinto che i cittadini di Villafranca su questo lo stiano con il sindaco e non che gli dice che si è improvvisato inopinatamente giustiziere. Grazie a Mario Faccioli. Mentre tornano i Doors in studio sentiamo una telefonata almeno, Ersilio che chiama dalla provincia di Rovigo, prego Ersilio. Sì, buongiorno, chiamo da Adria, Gemmino, buongiorno a tutti. Niente, l'intervento voglio fare io dal 2004 ho aperto una società in Repubblica Ceca e mi trovo benissimo. Dopodiché, dietro la sollecitazione di tanti amici imprenditori, mi hanno detto, questo è tornando al discorso di prima dei 17 consulenti che ci sono in Italia, che siamo un popolo di santi. Ecco, faccio anch'io il consulente, ho implementato la mia attività portandola facendo il consulente appunto e costituendo ditte e società per questi italiani che vogliono ottimizzare. Ersilio, butti un occhio all'iniziativa che ha fatto Andrea Zucchi, che si tiene sabato prossimo Passaporto per la vita, perché può essere che sia in grado di portare buone idee a loro che ne hanno bisogno, secondo me. Comunque a Carpaneto Piacentino, e intanto la ringrazio. Rapidissimo Renato da Varese, riesce a essere sintetico? Sintetico per questa bellissima trasmissione, le dico subito che non molto lontano ovviamente da Varese come così via, c'è la vicina Svizzera che Tende dei tappeti rossi con il progetto Copernico, di cui hanno parlato varie trasmissioni da Report a Ballarò con Santoro e così via, e sono, diciamo che si hanno agevolazioni pazzesche, l'apertura di un'azienda nell'arco di un mese, un ufficio nell'arco di una settimana. Paese serio. A tasso da 0,50 a 1%. Renato, ti devo salutare e ti ringrazio, perché è ovvio che gli esempi sono tanti, ne parleranno insieme ad Andrea Zucchi, che io intanto saluto e ringrazio, spero di avergli potuto dare una mano grazie a questa visibilità, ma tanti sono coloro ai quali sto pensando in questo momento nella nostra campagna Desperati Mai, @radio24.it. Intanto appuntamento a domani.